ricever gli ossequi di coloro che approva per conseguirti moglie d'un sì nobile arrinco corro l'incerta via. Mi sai tu dir che cos'è gelosia? Perché ciò mi dimandi? Vuo saper se di Dario sono gelosa o no? Se tu non lo sai, nemmeno io lo saprò. Flora, mia luce, Argene, il foglio, mio tesoro. Quante cose confonde. Mi par d'esser gelosa, ma di che? D'Argene oppur di Dario? Io non soffro. Rimirar non possio quel ciglio innamorato, che infiammar non mi senta il cor gelato.